Siamo al telefono con Ciro dei Gas Nevada. Intanto, ciao Ciro, come va? Ciao, tutto bene direi. Fin qui tutto bene, grazie. Fin qui tutto bene, perfetto. Allora, noi vi abbiamo chiamato perché c'è questo ritorno un po' dei Gas Nevada. Giovedì 5 febbraio al Rocker Inn qui a Bologna ci sarà la proiezione di Going Underground, che è un docufilm di Lisa Bosi, e il 20 febbraio ci sarà il live all'estero. Partiamo da Going Underground. Insomma, parla dei Gas Nevada, ma non solo, parla dell'evoluzione della musica, non solo a Bologna, non solo italiana. Come è nato il documentario e come è andata questa collaborazione? Guarda, il documentario nasce da un nostro live set, da una chiacchierata che facemmo al Dams, direi 2 o 3 anni fa, io e Marco, raccontavamo appunto di quel periodo, fino agli 70, inizio 80, le case occupate, le rivolte, il punk e tutti i corollari che c'erano attorno a questa Bologna e Italia in fermento, e l'occasione fu che venne Lisa Bosi, la rivista, a sentire questa storia, si interessò e mi chiamò per chiedermi se avevo voglia di farci raccontare. Lei ci ha dato una visione abbastanza particolare, per il fatto perché non apparteneva a quell'epoca, lei non c'era in quegli anni, e poi è stato un racconto molto visionario, questo è quello che mi ha rapito di Lisa. E ho detto sì, dai, raccontiamo gli ordinari e raccontiamo quegli anni. E devo dire che il risultato, per quanto mi riguarda, è fantastico, è bellissimo. È un bel racconto. Bene, quindi insomma, il 5 febbraio al Rocker Inn cerchiamo di invitiamo tutto il pubblico all'ascolto per venire, sì, a vederlo. Ne approfitto anche per segnalare che dopo la proiezione ci sarà un piccolo talk o lungo talk, dipende dalle domande e dall'interessamento che avrà la gente ad approfondire, con la presenza, oltre che mia, anche della regista Lisa Bosi. Ecco, voi nella presentazione un po' di questo docufilm siete presentati, ma lo siete effettivamente, lo siete stati, come una band rivoluzionaria. Ecco, questa parola non vi fa vivere un po' di responsabilità rispetto a questo, insomma, rivoluzionari importantissimi per la musica del tempo? Come vivete questo richiamo? Quando c'è qualcuno che ti segnala come... Io più che rivoluzionario amo la parola seminale, mi piace di più. Pensare che abbiamo lasciato traccia per le generazioni future su quello che è stato quel periodo, il nostro sound, mi riferisco essenzialmente a Six Soundtrack, che è un album che è stato definito da Rolling Stones fra i primi 100 album più, diciamo, importanti della storia della musica italiana. È bello, non sento responsabilità, sento un piacevole riconoscimento, diciamo. No, responsabilità no, perché comunque la musica è, come dire, è un linguaggio che va oltre certe tematiche di responsabilità e quant'altro, insomma, non mi sento responsabile, anzi, mi sento felice di questo riconoscimento. Oltre al docufilm, dicevamo, il 5 febbraio, il 20 febbraio sarete all'Estragon con un live, che non è un live full band, diciamo, ma è un duo. Come sarà e cosa porterete? C'è anche qualcosa di nuovo, eventualmente? Beh, allora, piccola genesi. Gas Nevada si addormenta alla fine degli anni 80. Io e Marco, il bassista, che abbiamo mantenuto il brand del nome, abbiamo preso strade diverse, abbiamo fatto cose diverse, e poi ci siamo incontrati nel buio periodo del Covid, e tutto nasce proprio da questo evento che ci era stato chiesto di fare al Dance a Bologna, dove per poter suonare abbiamo rivisitato Six Soundtrack mettendola tutta l'elettronica che mancava in quegli anni perché non c'era quella tecnologia. Il live si presenta come un live set a tutti gli effetti, con tastiere e visual che accompagnano in maniera incisiva tutto il live. Noi proponiamo non solo brani di quel periodo rivisitati in chiave elettronica, ma anche brani non più inediti, ma che erano inediti all'epoca del docufilm. Quindi ci sono 3 brani che sono 4 brani che sono la nuova ricerca di Gas Nevada. Accanto a questi mettiamo tutta una serie di titoli importanti che sono stati per noi molto formativi, che si va dai Duff al Yellow, ovviamente Depeche Mode e tutto questo mondo new wave elettronico che accompagnava le serate, le giornate alla Town Fabric, diciamo. Il Suicide, per esempio, non mi vengono in mente tutti, però proponiamo quello che era il mood degli anni 80, di quel periodo. Quindi una serata, io la reputo molto interessante, spero anche divertente. Insomma, il 20 febbraio all'Estragon avremo modo di scoprirlo. Tra l'altro siamo molto felici di tornare a suonare a Bologna. L'ultima volta lo abbiamo fatto al Teatro Comunale, 2 o 3 anni fa, e anche lì è stata una bella serata. Insomma, poi... sono serate comunque incentrate sul Sound 80s rivisitato dai Gas Nevada. Quello è quello che ci si deve aspettare.